pronto, don Andrea? Eccomi, pronto. Buonasera, don Andrea. Buonasera. Siamo molto lieti di averti qui a Radio Maria anche stasera. Sì. Ecco, io ti presento d'ora in poi come rappresentante dell'Opus Dei. Sì. Non so se è giusto dire movimento. No, infatti, cioè in un certo senso, diciamo che è giusto dire che sono un sacerdote della prelatura dell'Opus Dei. Sì. È come fosse una diocesi, insomma, in pratica, no? Sì, è come, diciamo, noi per spiegarlo, diciamo, facciamo un po' l'esempio degli ordinariati militari. Ah. Nel senso che un fedele di una diocesi qualunque, quando sente e si rende conto di avere anche questa vocazione, la vocazione all'Opus Dei, entra a far parte dell'Opus Dei, ma non smette per nulla di essere fedele della sua diocesi. Ah, no? Benissimo. Quindi in tutto e per tutto, nella sua parrocchia, eccetera. Perché lo spirito dell'Opus Dei è proprio non togliere nessuno dal proprio posto. Bellissimo. E quindi, diciamo, è una realtà della Chiesa, a capo della quale c'è il prelato, che è un vescovo, e quindi praticamente questi fedeli laici e anche i sacerdoti, cioè i fedeli laici sono in tutto e per tutto fedeli della loro diocesi e quindi obbediscono al loro vescovo. Poi per quegli impegni che prendono per la prelatura dell'Opus Dei si riferiscono al prelato dell'Opus Dei, che sono fondamentalmente impegni di tipo spirituale, certo, di formazione spirituale e di apostolato nel proprio ambiente, di santificazione del proprio lavoro, della propria vita familiare, ecco, secondo un certo cammino che è un cammino molto ordinario, ecco, molto secolare, sì, laicale, ecco, diciamo, sì, proprio l'idea di non togliere nessuno dal proprio posto, ma di dargli invece un aiuto in più rispetto a tutti i grandi aiuti, bello, che ha sempre nella Chiesa, un aiuto in più per rafforzare la sua vocazione cristiana e cercare di vivere questa pienezza della chiamata di tutti alla santità. Quindi l'Opus Dei si propone come aiuto per svolgere bene il proprio dovere ordinario nella posizione in cui Dio ti ha messo. Ecco. In cui Dio ti ha messo, senza toglierti dal tuo posto, cioè quello che già tu fai, quindi nella tua famiglia, nel tuo lavoro, nel tuo ruolo nella società e anche nella realtà ecclesiale dove sei immesso, nella tua parrocchia, con gli impegni che hai, e, ecco, darti un aiuto per capire che è proprio lì che il Signore ti sta chiamando ad essere molto bello cristiano e anche ad aiutare gli altri, no? E quindi è un aiuto, l'Opus Dei quello che dà ci dedichiamo noi preti della prelatura fondamentalmente alla direzione spirituale, al sacramento della penitenza, certo, ecco, quindi e poi è una catechesi, una formazione e quindi che cerchiamo di dare proprio anche nei momenti in cui non si distoglie nessuno che sta dalla vita familiare o da altri impegni di lavoro che ha. Molto molto bello, quindi non è che l'Opus Dei accalappia la persona e la distoglie dal no, suo dovere, c'è tutt'altro. Esattamente, è proprio il contrario. Proprio il contrario, certo. Quello certo che deve succedere è proprio il contrario. Bellissimo questo. Anche il sacerdote diocesano, per esempio, che possono, perché c'è un'associazione sacerdotale che si chiama la Società Sacerdotale della Santa Croce, in cui un sacerdote diocesano, se vuole, può entrare a far parte, se si ha questa vocazione, ma sapendo che come laico non si toglie per niente dalla sua diocesi, dalla sua fraternità sacerdotale, dalla sua obbedienza unica al vescovo, ma ha semplicemente un aiuto spirituale personale, ecco, per vivere il suo ministero così come noi al laico diciamo il tuo lavoro è il luogo dove devi incontrare il Signore, devi cercare di farlo bene, certo, davanti a Dio, così il sacerdote lo stesso, ecco, ha questa fraternità sacerdotale che lo aiuta ad essere molto prete diocesano con gli altri preti diocesani, insomma, ecco, bellissimo, non toglie nessuno dal suo posto. Molto bene, allora don Andrea adesso inizia pure l'argomento che appunto che ti ha portato qui a Radio Maria, sì, sul sacramento della confessione. Questa sera di cosa ci parli? Guarda don Tino, stasera io avevo pensato di seguendo sempre un po' la scansione di questo libro che tu conosci, che si chiama Più gioia in cielo, ecco, di soffermarmi su quell'episodio che ispira anche la copertina del libro, no? Che chi lo conosce, sì, sì, ce l'ha in mano, c'è proprio questa donna peccatrice, certo, no? Di Luca, sì, racconta, sì, sì, Luca 7, ecco, che si incontra con Gesù, no? E che allora mi soffermo su questo, se va bene, no? Molto, molto bene. Perché quindi sarebbe sulla peccatrice, la famosa peccatrice. Sì, nella casa di Simone il fariseo. Il fariseo, certamente, ecco, quando Gesù è stato invitato a pranzo. Quando è stato invitato a pranzo, esattamente. Bene, inizia pure, don Andrea. Inizia, bene. Allora, ecco, questo brano che io penso che tutti gli ascoltatori ricordano, anche se lo sintetizzo, appunto, Gesù è invitato a pranzo nella casa di un fariseo che poi scopriamo che si chiama Simone, e una donna che è nota in quella città come peccatrice e sa che Gesù è lì, quindi si infila in questa folla che lo segue e prende i suoi piedi, perché loro erano pranzavano in un modo diverso da come siamo noi, no? Con un po' sdraiati con i piedi in evidenza da dietro, e li prende e comincia a piangere e poi ad asciugarli con i suoi capelli e a profumarli con un profumo, con un vasetto di profumo che si è portata dietro, ecco, e a baciarli. E in quel momento Simone pensa male dentro di sé, dice: ah, se questo fosse un profeta, pensando a Gesù, saprebbe perfettamente che specie di donna è colei che lo tocca, è una peccatrice. Allora Gesù in quel momento interviene e dice: Simone, ho una cosa da dirti. E gli racconta quella parabola, in questo caso, di quelli che dovevano, ecco, c'erano due debitori, uno doveva 500 denari, l'altro ne doveva solo 50, e il creditore, però nessuno dei due aveva da restituire, e il creditore condona a tutti e due, e Gesù gli chiede: chi secondo di te lo amerà di più? E lui dice: Simone, beh, penso proprio quello a cui ha condonato di più. E allora in quel momento Gesù gli fa vedere la donna e gli illumina la coscienza, perlomeno secondo me, comunque gli ribalta il suo giudizio interiore e gli fa capire che questa donna sta amando molto e quindi, ecco, prepara la strada per poterle dare il perdono dei peccati, e nello stesso tempo fa capire a Simone che è lui che si deve esaminare, lui che è un peccatore anche se non se ne stava rendendo conto, anche perché stava trascurando alcune cose di affetto molto semplici, molto banali, molto normali, quell'ospitalità. Allora erano soliti appunto dare il bacio dell'ospitalità e offrire l'acqua per lavare i piedi, e tutto questo Simone non lo ha fatto, e quindi dimostrava con questo atteggiamento un po' freddo una mancanza d'amore. Ma Gesù in questo modo, ecco, lo aiuta secondo me a rendersi conto, ad esaminarsi, tanto è vero che appunto così quando io commento questo brano in questo libro ipotizzo che Simone alla fine, e anche se il Vangelo non lo dice, si converte. In fondo mi colpisce il fatto che questo fariseo rispetto ad altri, ecco, è noto anche per il suo nome, e poi soprattutto che noi conosciamo il suo pensiero più nascosto, quindi io essendo confessore e dovendo, so che la Chiesa ci impegna e il Signore ci dà un grande aiuto per vivere questo riserbo totale, questo segreto della confessione, penso che anche Gesù, ecco, nei confronti di questa di questo pensiero interiore che Simone non ha neanche manifestato, poi non lo abbia raccontato in giro. Quindi mi piace pensare che sia Simone stesso che quando si è convertito ha poi raccontato come Gesù ha individuato, ha capito il pensiero del suo cuore e la sapienza con la quale lo ha portato a cambiare vita, veramente a convertirsi, no? Per questo brano del Vangelo, a mio parere, ma non solo a mio parere, credo che tutti siate d'accordo, è un brano di una ricchezza straordinaria. San Luca senz'altro ci ha abituato a tanti brani meravigliosi sulla misericordia di Dio, ma questo è un episodio ricchissimo. E io penso che, per esempio, guardiamo, sono tre i grandi protagonisti: Gesù, Simone e questa donna. Ecco, io vorrei innanzitutto mettere lo sguardo su Gesù, e Gesù dimostra in questo episodio della sua vita una sapienza infinita, veramente fa capire che conosce quello che c'è in ogni uomo, no? come dice San Giovanni nel suo Vangelo, no? Cioè conosceva veramente quello che c'è nel più profondo del nostro cuore. Possiamo dire che ci conosce molto meglio, no? Di quanto noi stessi non ci conosciamo. E quindi la sua sapienza infinita, la sua conoscenza e straordinaria del cuore dell'uomo lo porta ad agire con una capacità di conquistare il cuore sia della donna che di Simone, e di fronte alla quale noi rimaniamo a bocca aperta e cerchiamo, e gli chiediamo aiuto per avvicinarci un po' a questa sapienza. Manifesta la sua misericordia infinita, perché in fondo Gesù perdona questa donna, le dice ti sono perdonati i tuoi peccati, ma nello stesso tempo apre la strada al perdono, conquista, io penso, ecco, il cuore anche del fariseo e mette in evidenza qual è il grave problema dei farisei di ogni tempo, perché questa è una malattia spirituale che c'è, che ci può essere in ogni religione, in ogni tempo. E soprattutto in questo episodio del Vangelo, come in tanti altri, ma forse più che in altri, noi scopriamo la sua santissima umanità, la sua pienissima umanità. Noi di Gesù vediamo e crediamo, e leggendo il Vangelo ci confermiamo sempre più, che è pienamente uomo e veramente Dio. Ecco, questo per esempio è un altro aspetto che il Beato José María Escrivá coglieva con grande profondità nella figura di Cristo, in molti episodi del Vangelo, e ci aiutava e lo predicava e lo scriveva. E lui addirittura si commuoveva di fronte all'umanità di Cristo, al fatto che Gesù non avesse paura di aver fame, di aver sete, di pranzare con i peccatori. In questo, di essere stanco del cammino quando si siede al porto di Sicar, dove poi incontra la Samaritana, in questo episodio l'umanità di Cristo appare con tantissime sfaccettature, no? Io vedo poi intanto il fatto stesso che abbia questa ospitalità, no? Accetta gli inviti a pranzo. Qualche volta penso che le cose più belle, più grandi, in fondo anche l'Eucaristia, ecco, l'ha realizzato durante una cena, ecco, Gesù le realizza in questo momento di grande umanità, di grande fraternità, no? Le parabole più efficaci, ecco, i momenti più commoventi, e accetta questo invito, e poi quando la donna gli prende i piedi lui lascia fare. Cioè, non la respinge, non ha questa reazione che hanno tutti gli altri, e poi quando evidenzia, capta il pensiero negativo di Simone, vedete un po' come tratta Simone. Lui non lo accusa subito, un'immagine che anche il Beato José María usava, e diceva che bisogna tenere presente quando si parla con le persone, quando si cerca anche di avvicinarli a Dio, usava l'immagine così, una volta molto nota, del ferro, che bisogna riscaldarlo prima di forgiarlo, no? Prima di colpirlo, quello che faceva il fambro, che fa il fambro, no? E allora diceva, alle anime succede la stessa cosa, devono essere portate al rosso vivo dell'amore di Dio per poi effettivamente riuscire, ecco, a modellarle secondo Gesù Cristo. Ed è quello che fa Gesù in questo momento, cioè lui opera gradualmente con Simone e gli fa io dico così un po' scherzosamente, un indovinello molto facile, proprio per fare in modo che la risposta sia sicuramente esatta, no? Chi secondo te lo amerà di più, quello a cui ha condonato 500 o quello a cui ha condonato 50, no? È anche, diciamo, un ragazzino, è stato detto, un bambino piccolissimo, infatti lui risponde, ecco, secondo me quello a cui ha condonato di più. Ha anche la sapienza di usare un vocabolario molto adeguato a lui, perché probabilmente, ecco, con i denari e con i condoni si trovava Simone Fariseo a suo agio. E dice, proprio gli dice esplicitamente Gesù, hai giudicato bene. Cioè lui, prima di dirgli che ha giudicato male, lo porta a fare un giudizio buono, un giudizio giusto, no? Per incoraggiarlo, per fargli capire che non c'ha con lui come persona. Però poi gli fa vedere, ecco, usa sempre questa sapienza della parabola, anche se in quel momento è una parabola vivente. Quella donna, nel frattempo, mentre lui parla con Simone, sta continuando a baciare i piedi di Gesù, ad asciugarli con i suoi capelli, a cospargerli di profumo, a bagnarli con le sue lacrime. E Gesù la lascia fare, perché sicuramente fa bene a quella donna sfogarsi per bene. E nello stesso tempo gli serve questa realtà che avviene, questo amore che si profonde esplicitamente, possiamo dire che usa un metodo audiovisivo, Gesù, no? Cioè fa vedere e poi parla, no? Dice Simone, guarda questa donna, eh? E finalmente, ecco, lo mette un po' in contrasto con, tra quello che lui pensa e quello che la donna sta facendo. Io, riflettendo su questo brano del Vangelo, ho notato con sorpresa, mi ha commosso questa piccola e banale scoperta, che il Vangelo usa ben 9 verbi per spiegare l'azione della donna, e quindi è un'azione veramente molto ricca, molto variegata, per la donna che sa, che va, che si piega ai piedi di Gesù, che li prende per mano, che piange, che li accarezza, che li asciuga con i suoi capelli, che li profuma. Mentre Simone Fariseo, guarda un po', usa un altro verbo che il Vangelo non usa, che nello spiegare l'azione della donna, molto più banale, molto più rozzo. Dice, saprebbe bene, se questo fosse un profeta, che questa donna che lo tocca è una peccatrice. Che lo tocca. Vedete come il giudizio interiore, il giudizio negativo interiore deforma la realtà. È vero che lo tocca la donna, non c'è dubbio, ma come è diverso dire toccare oppure dire baciare, asciugare con i capelli, diciamo profumare, e piangendo cominciò a bagnarli, è tutto diverso, no? Allora questo fariseo deve essere aiutato a capire che sta giudicando male. E Gesù gli fa vedere che quella donna non lo tocca, dice tu quando sei entrato in casa tua non mi hai dato l'acqua per i piedi, lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Cioè Gesù in quel momento fa vedere che chi sta sbagliando, chi ha sbagliato è stato lui, è stato Simone, e allo stesso tempo fa capire a lui e a noi che Gesù apprezza enormemente quei piccoli particolari di ospitalità, di affetto, un saluto, uno sguardo affettuoso, un sorriso, un fiore da mettere accanto al tabernacolo, adesso che ci stiamo preparando alla festa del Corpus Domini. Ecco, anche queste cose ricordo che il fondatore del Musei notava, e lui questi brani del Vangelo sapeva vedere quanto Gesù apprezzava l'amore concretizzato in gesti, ecco, in gesti concreti. Per esempio, quando sappiamo quell'altra famosa unzione di Betania, no? Quando Maria di Betania, pochi giorni prima della morte di Gesù, appunto gli rovescia sul capo quei 300 denari di profumo preziosissimo, non solo Gesù la difende, ma dice: dovunque sarà predicato il Vangelo, verrà detto quello che lei ha fatto, perché ha fatto una cosa buona verso di me. Ecco, ricordo che il fondatore Opus Dei amava applicare questo, ha fatto una cosa buona verso di me, proprio alle attenzioni che possono essere anche molto piccole, di cura anche della pulizia, dei vasi sacri, delle tovaglie, nell'attenzione verso Gesù presente e nascosto nell'Eucaristia, cosa che appunto in modo particolare nella domenica prossima noi cercheremo di vivere. Allora ecco, Gesù gli mette in evidenza a Simone questo contrasto. Veramente sei tu che non mi hai amato, lei mi sta amando. Ecco, io penso che poi se guardiamo la donna, ecco, la donna non dice niente, dice nulla, fa solo questi gesti, esprime il suo amore. E Gesù alla fine le dice, le può dire dopo aver fatto tutto questo discorso a Simone, ti sono perdonati i tuoi peccati, va in pace, la tua fede ti ha salvato. A Simone aveva spiegato e Simone gli aveva messo in evidenza che quei gesti erano gesti d'amore, e quindi diceva, per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si perdona poco, ama poco. E più avanti dice, la tua fede ti ha salvata, va in pace. La donna non dice niente, però Gesù alla donna, e quindi a tutti noi, sta dicendo, guardate che il perdono che io vi offro, che io offro a ciascuno, è profondamente legato all'amore, Perdono è un atto d'amore e al contempo lo posso donare nel momento in cui voi amate. Chiedere perdono è un atto d'amore. Ricordo anche in questo senso che Beato Casimiro Scrivà ha una frase molto sua che è questa, dolore d'amore. Si riferisce proprio al chiedere perdono per i nostri peccati. E diceva a un certo punto in un punto di un suo scritto, piangi figlio mio di dolore d'amore. Dolerci di aver peccato e che a volte può portare anche, se Dio vuole, non è necessario, al pianto, oppure può semplicemente essere un dolore profondo, cioè un comprendere che quell'azione, quel pensiero, quell'omissione è stata una realtà che ha fatto soffrire il Signore. Allora chiedergli perdono è fare come ha fatto questa donna, è veramente riempirlo d'amore. Allora se noi andassimo, visto che dobbiamo un po' e parlare della nostra confessione, alla confessione tenendo presente l'esempio di questa donna, andare, correre intanto, no? Là dove sappiamo che c'è Gesù, gettarci ai suoi piedi e sapere che quando esprimiamo il dolore per i nostri peccati stiamo facendo una cosa buona verso lui, cioè stiamo facendo una carezza, diciamo così, no? Stiamo riparando con un atto buono al male che abbiamo fatto peccando. Ovviamente è un atto d'amore ed è anche un atto di fede. Credo che tu, questo attraverso la persona del confessore, tu Dio mio mi ascolti, tu mi aspetti, tu mi perdoni, credo che mi ami e che perdonandomi mi ami ancora di più. Credo che io nel chiederti perdono sto ravvivando il mio amore e certo a volte non è facile chiedere perdono così, cioè far coincidere il nostro chiedere perdono con un atto d'amore, ma dobbiamo credere che questo avvenga proprio durante la confessione, no? Noi abbiamo sempre saputo e sempre imparato che anche se arriviamo alla confessione a chiedere perdono nel sacramento della penitenza con una mescolanza di altri sentimenti, no? Però in quel momento il Signore trasforma anche il nostro dolore, che può essere paura del castigo, paura dei guai, anche del dolore che proviamo in quel momento nell'anima, dell'amarezza che prova a stare lontani da Dio. Ecco, in quel momento però Gesù trasforma durante la confessione quel nostro dolore imperfetto in un dolore perfetto d'amore. E poi possiamo anche tenere presente la donna che non dà retta ai commensali. I commensali cominciarono a dire tra sé, ma chi è quest'uomo che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, va in pace. E io leggo in questa frase del Signore un invito alla donna a dire non dare retta ai commensali, e noi dobbiamo cogliere questo invito del Signore a non avere rispetto umano, a non pensare quello che pensano gli altri. Quando dobbiamo chiedere perdono al Signore andiamo con coraggio di fronte a tutti, se è necessario, a chiedere perdono dei nostri peccati. E da Simone possiamo imparare ad esaminarci, ad esaminarci profondamente, a non accontentarci, anzi, ad avere veramente terrore e molta paura, se si può avere figlio di Dio, non ha paura di niente e di nessuno, insegnava il Beato Casimiro, neanche di Dio che è suo padre, però abbiamo timore di Dio, cioè abbiamo paura di entrare in questa malattia dell'anima che è la timidezza, cioè non renderci conto del peccato, oppure dobbiamo avere paura di avere quella malattia dell'anima che è il fariseismo, che reputa peccato solo alcune realtà esteriori e non guarda dentro il suo cuore. Io sto giudicando male. Allora, come potrebbe Simone, come riesce Simone, io credo, io spero che sia riuscito a superare questo problema, con il dialogo con Gesù, occorre confrontarci con Gesù. Quello che penso io, quello che penso io istintivamente, è come tu pensi, quello che vedo io, è come tu Gesù vedi quelle cose, quella situazione, quella persona. Ecco, non accettare così acriticamente i nostri giudizi interiori. E quindi invece imparare da Gesù e da Simone, che ha imparato la lezione, a criticarli profondamente. Allora ecco, io penso che in questa parabola, cioè meditando, non è una parabola, Gesù dice una parabola, ma è un episodio vero, meditando questa parabola ci affascina Gesù con la sua umanità santissima, attraverso la quale ci fa capire che così anche le piccole cose delle nostre giornate possono essere veramente rivolte a Lui e veramente essere piene di Lui. Impariamo da Lui, ci lasciamo, come dire, ci dobbiamo lasciare convertire da Lui che ci tratta, nel caso avessimo il problema di Simone, che ci aiuta ad esaminarci dentro, a non essere così, a non accontentarci di avere una osservanza esteriore di alcuni aspetti della legge di Dio, ma a cercare la legge della carità. E impariamo dalla donna, impariamo dalla donna che Gesù si mette sempre dalla parte del più debole, di sta dalla nostra parte, no? Anche questo esempio mi fa venire in mente il Beato José María, che diceva: quando una persona sbagliasse e se tutti lo attaccassero perché lui sbaglia e davvero sta sbagliando, io comunque sentirei l'impulso interiore di mettermi accanto a lui per difenderlo. Quindi noi dobbiamo vivere questo spirito sacerdotale di Cristo, cioè metterci accanto al più debole, difenderlo, no, dalle accuse, e aiutarlo evidentemente a convertirsi. Bene. Ecco, Dantino. Bene, caro Don Andrea, è stato molto bello. Direi che questo episodio è un po' una rivoluzione, non so, qualche cosa che cambia radicalmente le nostre idee ed è uno schiaffo al nostro perbenismo, no? Esattamente. Molto bello, veramente. Poi l'hai commentato molto bene. Adesso ti invito senz'altro a dare una benedizione negli ascoltatori, nel mentre che siamo in attesa della parola del Cardinale Silvestrini. Benissimo. Allora, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, ecco, discenda su tutti noi, sul nostro lavoro, sulla nostra vita ordinaria, sulle nostre famiglie, sul nostro desiderio di amare Gesù con i fatti, anche e soprattutto nei sacramenti della penitenza e nel sacramento dell'Eucaristia.